Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giammodin, una nuova poesia del poeta Alessandro Chiesurin, dal titolo Una notte a Belluno. Non piscia più la fontana martirizzata, l'incombenza spetta i fradici ciuchi. Alcoliche molestie si sgolano in lontananza, cianciando sconciamente sotto portici stanchi. E tu svolti, direzione Loreto, infossato nelle spalle, lucide di pioggia, tallonando una nitida visione del domani che sarà.